Carissimi amici di Runtime, c'è stato un tempo lontano dove succedevano cose sicuramente molto lontane da quelle che sono le cose che succedono oggi, alle nostre abitudini, al nostro modo di vedere e soprattutto il modo di fare le cose. Un tempo che noi vediamo a volte con certo fascino, ma sicuramente con poca cognizione di causa, tant'è che magari ci approcciamo dal punto di vista delle serie televisive, del lavoro cinematografico, magari quando vengono descritte determinate ambientazioni di determinate epoche, e cerchiamo un attimo di capire quello che era realmente una certa realtà. Ma siccome che non siamo poi così ferrati, non riusciamo a capire dove arriva la fiction e dove in realtà c'è la cruda realtà, quindi un racconto più realistico. E per fare questo, questa sera abbiamo deciso di... ci siamo inventati questa cosa, no? Questa puntata, che come al solito la nostra ha un titolo un po' astruso, insomma, diciamo, i nostri soliti titoli, insomma, che alla fine fanno la trasmissione. Di solito noi partiamo dal titolo e poi facciamo il programma, che è Storie di spade, cavalieri e morti ammazzati, no? Ma cioè, alla fine, no? Nel senso, possiamo fare un discorso del genere soltanto con due tipi di persone. O con magari degli storici, delle persone che fanno ricerca storica a un certo tipo di livello, o persone che sono tanto appassionate da far parte di un ambiente, di una circostanza, di una situazione, di eventi, di associazioni e via dicendo, che comunque lo portano a conoscere o essere un po' più ferrato rispetto a tanti altri, rispetto a quello che era ovviamente questo mondo di cui stiamo parlando. Nello specifico parliamo del Medioevo, che è insomma un periodo oscuro, apparentemente oscuro, e invece la persona con la quale parliamo questa sera è Leo Varghion. Ciao Leo. Buonasera a tutti quanti, buonasera Simone, grazie di avermi invitato. Che in tanto tempo che un po' ci conosciamo, mi sono sempre detto, si dice Varghion o Varghion? Beh, io quando ho concepito questo nickname l'ho pensato con la G dura, effettivamente. Ok, quindi perché Varghion. Varghion, ok. Perché quando ho pensato a questo nome ero in fissa veramente con due cose. Ero veramente piccolo, ero in fissa con lo svedese e con i lupi. E infatti Varg significa lupo in svedese. E quando ero più piccolo e più cazzone, effettivamente mi sono immaginato questo nickname. Siccome mi suonava bene in testa, alla fine me lo sono portato fino ad oggi. Praticamente ormai è il mio, ormai è la mia armatura, se vogliamo, per restare in tema, ecco. Vedi che già hai detto una cosa, già io parto con una serie di curiosità, perché lo svedese certo non passa per essere una lingua tra le più conosciute, ma soprattutto tra le più musicali, insomma, diciamo così. Uno di solito dice, vabbè, ti piace la lingua perché ti piace l'assonanza musicale, no? Probabilmente sì. Per te in quel caso sarà così, ma perché lo svedese? Cioè, nel senso... Allora, quando ero piccolo lo svedese mi affascinava da morire, ma le lingue in generale, tutto il mondo norreno, tutte okay. queste cose, ero veramente uno di quelli fissati con queste cose. Poi piano piano in realtà la mia passione vera e propria per le lingue in generale, per la musicalità delle lingue è virata, diciamo, molto più a est, se vogliamo, perché è andata molto, insomma, tra là un po' così, è andato più che altro verso la Finlandia. Infatti oggi preferisco, diciamo, musicalmente il finlandese. Sono due lingue piuttosto diverse fra di loro, quindi ad oggi un po' così, un po' in maniera inciampicante sto cercando di imparare il finlandese. Ah, interessante. Oggi in epoca in cui tutti studiano, che ne so, il cinese, il giapponese, roba del genere, tu il finlandese, che poi è vabbè, però è comunque legato magari a una certa, comunque si collega in qualche maniera a queste due passioni, anche legate a mitologie, storie, no? di un certo tipo di civiltà che magari è un po' lontana dalla nostra, ma che magari a te ti affascinano particolarmente, insomma. Oggi, tipo, per esempio, parlavamo fuori onda così, no? Nel senso, in una delle nostre chat tu hai portato l'esempio dell'Aquila di Sangue, no? Io ho detto, vedi, l'Aquila di Sangue è una cosa che ho visto su Viking, quindi comunque in qualche maniera, no? Nel senso, sono dei richiami così che ogni tanto venivano fuori. Sì, sì, infatti. Vikings, vabbè, io come tutti i rievocatori storici, diciamo, abbiamo una pessima, veramente pessima opinione di quella serie, ma come tante persone, ma per il semplice fatto che purtroppo Vikings nella sua nella sua missione, se vogliamo, piuttosto caruccia, se vogliamo, quella di avvicinare, far appassionare le persone alla storia, a certe storie, perché comunque Vikings è un purpurri di storie. In realtà non è la saga di Ragnar Lodbrok, in realtà non era così, cioè non racconta proprio quei personaggi lì, anzi alcune vicende sono piuttosto incastrate fra addirittura secoli e secoli di differenza, in realtà. Però diciamo, ha sicuramente come missione quella appunto di far appassionare le persone a questo. Però se tu vai a sentire qualsiasi rivocatore gli nomini Vikings, probabilmente la prima cosa che ricevi di risposta è una testata sul naso proprio. Vabbè, però questo lo possiamo apportare su tante altre cose, no? Tipo, per esempio, se era famosa fu l'epoca delle polemiche su Troia, no? Cioè sul film, sul grande colosso americano della guerra di Troia, che insomma alla fine è pieno di strozzate, cioè nel senso di, però sì, diciamo sì, di inesattezze, certo. Dal punto di vista televisivo e cinematografico gli americani tendono a fare una generalizzazione, perché comunque per loro è tutto lontano, no? Cioè è tutto distante da loro, e quando basta che tu gli dai una ricostruzione, un minimo di ricostruzione anche dei costumi, di ambientazioni, è calla che hai fatto l'ambientazione storica, quando insomma in realtà poi il discorso sarebbe diverso. Tra l'altro Vikings è comunque, per chi la guarda dall'esterno, una serie piacevole da vedere, perché comunque le prime due stagioni sono belle, cioè nel senso, lascia perdere poi il discorso storico, no? Io dico comunque, già dalla terza stagione è sempre la stessa, cioè è la stessa storia che ricicla costantemente, no? Cioè nel senso, tu mi hai tradito a me, io ti ammazzo, io ti ho tradito a te, tu mi ammazzi, e via dicendo, insomma, un po'. Guarda, parlando proprio di questo, parlando proprio del punto di vista cinematografico, che è comunque un'altra cosa che sicuramente va proprio, diciamo, va presa proprio di per sé da sola, non va messa insieme alla storia, perché altrimenti è sempre uno scannarci, certo. Però effettivamente confermo, Vikings è una bella storia, è raccontata bene. Per dirti, uno dei miei personaggi preferiti è uno di quelli che effettivamente stava nelle prime stagioni, cioè lo Jarl appunto sotto cui stava effettivamente Ragnar all'inizio, perché è un personaggio scritto veramente bene e ti fa effettivamente, dà molta giustizia effettivamente alla psicologia dei norreni, che non erano semplicemente dei sanguinari, perché questo personaggio effettivamente è scritto molto bene. Adesso io non mi ricordo come si chiama questo Jarl, perché la serie l'ho vista anni fa e adesso non me la ricordo per niente. Però questo Jarl me lo ricordo particolarmente perché era disegnato come uno stratega, come una persona che sì, ha una mentalità ristretta, perché non vuole che esplorare a destra, non ha le mire espansionistiche, non ha il sogno di Ragnar dentro di sé. Lui vuole appunto portare avanti comunque un discorso che è andato bene fino a quel momento. Se vogliamo, c'è anche molto di moderno, insomma, il non voler provare qualcosa di nuovo, perché appunto si rischia di non ottenere il favore politico, no? Quindi si resta appunto sul già detto, sul già fatto, per così, per dare il contentino ai vecchi, mentre i giovani se la prendono in culo come sempre. Scusate le parolacce comunque. No, sì. Senti, però partiamo da inizio, perché sennò poi vedi già siamo partiti, ma è colpa mia chiaramente. Allora, parliamo di te un attimo, cioè tu, noi ci siamo trovati tante volte a parlare, no tante volte, ci siamo trovati alcune volte a parlare di alcune cose, esplorando un po', diciamo, un certo tuo interesse, perché noi leggevamo fra le righe quelle poche cose, insomma, che magari riuscivamo a capire, e poi seguendo anche magari il tuo podcast abbiamo capito che tu c'hai delle passioni, no? Però è giusto che racconti un attimo tu, così poi dopo da lì sviluppiamo tutto il resto, insomma. Allora, infatti sì, mi sono sempre trovato con Runtime, diciamo, in questo amore, se vogliamo, molto platonico, perché mentre voi magari accarezzate argomenti molto più legati alla tecnologia, a cose nerd, diciamo, molto più sul computeristico, se vogliamo, io su questi argomenti sono decisamente meno ferrato. Però sì, qualche anno fa, 6 anni fa per la precisione, mi sono ritrovato così a dare diciamo sfogo a quelle passioni che avevo da bambino per guerrieri, storie di cavalieri e quant'altro, tutto di diciamo molto di stampo molto fantasy, e dare sfogo veramente a questa cosa, iniziare con un lavoro con la compagnia di Scherma Storica e di Rievocazione Storica, Forte Braccio Peregrense, di cui sono membro appunto da ormai 6 anni. Non ho mai esplorato attraverso i podcast, altra mia grande passione che ho iniziato relativamente più tardi, comunque non ho mai esplorato in maniera definitiva questa cosa con i miei compagni, anche se è un progetto che io mi tengo in testa da parecchio in realtà. Cioè, mi piacerebbe davvero coinvolgere molto di più i miei compagni anche in questo media, che secondo me può dare moltissimo e c'è molto interesse, soprattutto perché i podcast sono sicuramente un qualcosa di molto più serio. Secondo me vedo che comunque c'è molta più più professionalità portata attraverso i podcast e questa cosa io, al passato sicuramente sì. Sì, oggi veramente si trovano veramente sul serio, si trovano tantissime cose molto molto specifiche se vai a vedere. Cioè, ci sono addirittura podcast che parlano solo di alcuni programmi, di alcuni plugin di alcuni programmi, e quindi nel senso le possibilità sono veramente tantissime, il pubblico ne vuole sempre di più secondo me. Quindi cioè, uno dei miei prossimi progetti sicuramente è questo, cercare un modo di creare un format che possa unire queste due mie grandi passioni, cioè certo, prima di far capire cos'è il podcast e poi dopo... Comunque vabbè, tu partiamo dall'inizio, quindi tu da ragazzino comunque fondamentalmente eri appassionato di un certo tipo di mitologia, ma magari anche di letteratura o di storiografia, no? Che era quella magari più antica, no? Magari legato al Medioevo, i cavalieri, le spade, le armature, cioè nel senso come lo guardavi sta cosa? La vedevi come una cosa da studiare, o proprio perché comunque magari ci fai fantastica vi sopra, che ne so, Dragon Slayer? Sì, io ero molto, diciamo, mentre gli altri magari avevano passioni molto più terrene, se vogliamo, molto più terra-terra, calcio, la cosa con la F e quant'altro, diciamo, io ero molto, sono sempre stato una persona molto fantasiosa, molto con la testa fra le nuvole, sempre ad immaginarmi mondi strani, lontani. E solo che ho avuto sempre un problema sono sempre stata una persona molto molto disordinata, quindi anche capire cosa mi piacesse davvero e quanta energia volessi portarci dentro è sempre stata molto difficile come cosa per me. Però devo dire, nel senso, una costante che mi ha sempre accompagnato è stata appunto la fantasia e, diciamo, immaginarsi storie di cavalieri, draghi e quant'altro, quindi proprio il fantasy in generale. Okay. È sempre stata una costante, cioè Dungeons and Dragons, insomma, tutte queste cose. Certo. Quando sono venuto a sapere appunto che c'era gente che studiava effettivamente i manuali del passato, dei grandi guerrieri, insomma, che mettevano in pratica nel reale, nel realistico, queste cose che andavano in giro a presentare come rievocatori storici, anche questa cosa per me era aliena in realtà. Quando lo sono venuto a sapere ho capito che quella veramente era la cosa che stavo cercando da una vita. E veramente è stata una cosa che non avevo mai fatto, cioè buttarmi a capofitto su qualcosa. Quando questo mio amico mi ha parlato di questa sua attività, no, io faccio questa cosa qui, cioè ho smesso di fare software perché ho scoperto quest'altra cosa molto più figa, andiamo in giro per l'Italia, facciamo rievocazioni, ci mettiamo costumi, combattiamo, così. Io sono rimasto folgorato da questa cosa veramente, e ho subito contattato quello che oggi è effettivamente il mio magister. Eri già là mentre che te lo diceva, eri già praticamente dentro. Praticamente sì, tipo la sera dopo scrissi subito su Facebook a questo signore, a questo famigerato Diego, mio maestro di spada da ormai, ripeto, 6 anni. Gli scrissi, dissi: guarda, sono amico di sto ragazzo, mi ha parlato dell'associazione un po' così, sono interessato a capire. Mi ha detto un po' di, cioè mi ha dato le classiche, insomma, coordinate per raggiungere il tutto, e ho iniziato da lì i primi allenamenti, e da lì non l'ho più mollato. Perché poi noi conosciamo il Medioevo, diciamo così, allora noi conosciamo, sappiamo che le documentazioni chiaramente sono state lasciate sin da quando noi definiamo la differenza tra preistoria e storia, cioè quando comunque la storia diventa documentata. Però il Medioevo in particolare è stato un periodo, il periodo dei codici, dove praticamente ogni cosa dell'umanità è stata codificata, no? Cioè in qualche maniera è stato scritto un testo o riprodotto un testo che parlava di qualche cosa, no? Quindi uno non ci pensa, io continuo a dire questa cosa perché è importante, uno vede il film delle battaglie medievali, cioè vedi Braveheart, faccio un esempio così, no? Vedi le battaglie, vedi che alcuni sono vestiti in un modo, vestiti in un altro, però non, non si rende conto che quell'aspetto così primitivo in realtà comunque nascondeva una codificazione di comportamento, di professionalità e via dicendo. Insomma, quindi ecco, anche questo poi fra un po' andremo ad esplorare. Però l'altra domanda che ti voglio fare io, no? E tu dicevo, comunque ho telefonato a sto maestro de spade che c'aveva questa associazione che praticamente insegna scherma, però un certo tipo di scherma, cioè nel senso comunque... la spade, cioè, non è che fate fioretto, insomma, questo voglio dire. Sì e no, nel senso, ecco, spiega sta cosa così. Allora, quello che noi facciamo effettivamente come associazione, allora bisogna iniziare innanzitutto partire da un concetto. La scherma arriva sicuramente da qualcos'altro, la scherma olimpionica come la conosciamo oggi. Certo, certo. Le sale d'arme in realtà, dove si tira di scherma appunto, come ce le possiamo immaginare per esempio nel Novecento, nell'Ottocento, insomma cose da signore quasi, no? Però arriva tutta da un mondo in realtà che... ha veramente secoli e secoli di storia, ok? Quello che noi facciamo effettivamente è riprendere quello che ci hanno dato i grandi maestri di spada del passato, partendo veramente dal primissimo, da quello che è stato praticamente datato come il più antico manuale di scherma della storia, cioè il famoso codice I-33, perché appunto è questo appunto il codice che gli è stato dato a questo manoscritto, che è appunto un manoscritto in cui ci sono miniature di... appunto di uomini che ti insegna praticamente, quello è effettivamente un manuale che ti insegna per esempio a utilizzare un duo di attrezzi molto particolari, cioè la spada e quello che viene chiamato brocchiere, che nello specifico è lo scudo piccolo, ok? Se siete avvezzi di giochi di ruolo così potreste definirlo il buckler, okay? Lo scudo veramente quello piccolo piccolo, proprio per proteggere solo la mano. Da questo I-33 per l'appunto questo non è ovviamente il primo manuale probabilmente prodotto nella storia, ma ovviamente sappiamo che i secoli sono piuttosto spietati nei confronti dei codici, delle miniature, dei libri comunque in generale. Di conseguenza quello che facciamo noi come associazione, ma come fanno tutte le scuole di scherma più serie comunque, è scegliere praticamente dei manuali, e da questi per l'appunto manuali appunto che possono essere stati fatti nel 400, nel 300, nel 500, insomma scegliere appunto i manuali scritti da questi maestri, studiare quello che quello che loro dicono, appunto studiare tutta una serie di mosse, di giochi appunto che si possono fare con la spada e non solo, appunto con tutte le armi che questi maestri appunto ci insegnavano appunto ad utilizzare, e da questi appunto costruire uno stile per l'appunto. Quello che facciamo nella nostra scuola è, per esempio, è prendere tanti esempi di manuali. Per esempio noi partiamo, ti cito alcuni nomi, poi non lo so, voi naturalmente potrete andarvi a cercare, per esempio uno dei più famosi, Fiore dei Liberi, anzi uno dei più antichi dei maestri di spada che abbiamo in Italia, o Filippo Vadi, o parlando dei tedeschi, adesso non mi vengono in mente altri nomi, ma ci sono tanti nomi che noi per esempio prendiamo a modello e scegliamo appunto da questi loro manuali più famosi, e da lì ci ricaviamo uno stile per l'appunto. Okay. E la scherma non essendoci un passaggio diretto, no? Tra codice manuale e maestro di spade, cioè non è che c'è un maestro di spade del 1300, insomma, questo voglio dire, no? Cioè nel senso, alla fine come si diventa maestro di spade oggi? Tra l'altro Michela ci dice in chat che vicino Gubbio c'è un mega negozio che noi ci passiamo sempre davanti quando andiamo alla casa nelle mani. Un mega negozio di cosa, però? Infatti stavo vedendo anch'io, sì, ma in realtà... Vai, prego, parla Michela, allora, parla. Ciao a tutti, innanzitutto. Ciao Michela. No, il negozio è Medioevo, che c'ha sia proprio armature, maschere, ma c'ha anche tantissime spade... E si chiama proprio Medioevo il negozio, ma grande. È originale, insomma, uno c'ha. Spesso, cioè, nel senso, le volte che sono andata a Romix e a Lucca Comics l'ho incontrato anche là, quindi penso che girino per le fiere. Beh, evidentemente sì, deve essere un negozio associazione, un po' magari, cioè, nel senso. Allora, tu lo conosci? Ah, questo qui non so se è un negozio o una catena, però posso assicurare che questi negozi di solito se le girano tutte le fiere del fumetto, così. Perché non so se vi è mai capitato, però se andate a Romix o così, c'è per esempio lo stand, sempre lo fanno, di una scuola di scherma molto famosa in Italia che si chiama Achille Marozzo. Sì. Che Achille Marozzo è il nome di uno dei più famosi maestri di spada, mi pare del 400 se non erro, che bolognese, e fu uno veramente particolarmente importante, tant'è che a lui, diciamo, molte scuole appunto hanno aperto chiamandosi appunto, okay, Achille Marozzo, studiandosi dal suo stile, per l'appunto. Ecco, insomma, questo che ti domandavo, ma oggi chi è che diventa maestro di spade, tramite quale procedura, chi è che ti insignisce, diciamo così, il titolo di maestro di spade? Allora, ci sono sicuramente delle vie molto più... Allora, nel tempo è cambiato in realtà, perché prima effettivamente mi sa che ci potevi diventare anche con la Federazione Italiana della Scherma, se non sbaglio. Ah, ok. Oggi però non basta effettivamente un tipo l'esame che davi prima, adesso ti servono molte più certificazioni, ti servono altre cose, altri esami che devi dare, però effettivamente diciamo non c'è più quella, che ti posso dire, quell'area di serietà che c'era prima in realtà, cioè infatti ad oggi sono molto, molti pochi quelli che diventano maestri di spada, perché, ripeto, è un processo un po' tortuoso in realtà. Quindi, diciamo, a me piacerebbe diventare maestro di spada, devo dire. Infatti, vorrei riprendere questo mio discorso con il mio maestro, che tecnicamente lui, essendo diventato un magistro scolare, attraverso una scuola, mi pare che stava a Napoli effettivamente, che ha dato l'esame lì, lui potrebbe insignirmi del maestro di titolo di spada, cioè del titolo di maestro di spada. Potresti essere scolare. Il suo padawan, insomma, in teoria. Potrei, io lo spero, un giorno spero di diventarlo comunque. Vabbè, tu buttagliela lì, poi piano piano lui, a seconda di come evolvi. Comunque, ritorniamo, sì, un po' al fatto che tu sei entrato dentro sta scuola di scherma, tra virgolette, no? Cioè, no, senza virgolette, è una scuola di scherma, mm-hmm, no? Hai detto bene. Che sì, immagino che voi là dentro non è che state solo esclusivamente tutto il tempo con i bastoni di legno a darvi le botte, no? Cioè, suppongo che a parte l'insegnamento di una tecnica di combattimento o delle tecniche di combattimento, ci sia anche poi un approfondimento, magari storico, narrativo, rispetto a quello che è poi ovviamente quello che andate ad apprendere, insomma, perché cioè, magari anche un po' di cognizione storica, non lo so. Allora, parlo naturalmente per la mia esperienza, naturalmente per la nostra scuola, perché noi appunto siamo effettivamente una realtà non proprio comunissima, perché siamo sia scuola di scherma che gruppo di rievocazione storica. Questa cosa naturalmente implica che una base storica, che una comprensione migliore naturalmente di ciò che andiamo a fare con gli attrezzi, con spada, scudo, è quantomeno indispensabile, e via dicendo. Sì, lo è per diverse ragioni, perché comunque quando noi andiamo a presentare i nostri progetti alle associazioni, alle proloco, insomma, che ci vogliono ospitare, che vogliono appunto ospitare un evento che racconta la storia, naturalmente noi ci andiamo molto preparati, non solo dal punto di vista marziale, ma anche proprio di comprensione, perché magari ci ritroviamo a dover rispondere magari alle domande dei curiosi che vengono a vedere, che ne so, la rastrelliera delle armi, che ci chiedono magari perché siamo vestiti in un modo, come funzionava la vita di allora. Per dirti, nel nostro gruppo, per esempio, il nostro maestro, che è stato uno dei pionieri della rievocazione del periodo storico dei Longobardi, un periodo storico che è stato sempre molto poco studiato in Italia, ma da lì in realtà ha preso molto piede in realtà come popolo, come rievocazione, perché effettivamente abbiamo ripreso l'importanza che questo popolo ha avuto nella nostra storia, tant'è che dobbiamo sempre ricordarci che la lingua longobarda che è stata portata in Italia comunque si è fusa con l'italiano corrente, e ad oggi ci sono almeno 200 e passa vocaboli nell'italiano corrente che vengono effettivamente dalla storia, dal ceppo germanico importato dai longobardi comunque. Sì, devo imparare anche gli insulti, c'è lobby frontali dalla chat, giustamente Monkey Island non si scorda mai, ovviamente. E se no non puoi essere maestro di spade, scusa. Giustamente, non posso essere maestro di spade, non posso battere il maestro di spada. Esatto, esatto. Ma perché poi noi, Cioè, a me mi affascina un po' tutta questa questione. Io poi l'altro giorno devo dire una cosa, mi dispiace, la devo dire. Lo so che è bella questa trasmissione, fino adesso è bella, poi però devo dire una cosa che un po' rovinerà un po' la questione, un po' l'atmosfera, diciamo così. Vai, anche rovina se, tutto. Anche se però in qualche maniera, secondo me, forse rientra nel contesto realistico della questione. Perché l'altra volta, non questa domenica, ma la scorsa domenica, Michela, durante la sua trasmissione mono, stava mettendo dei brani, stava raccontando, e alla fine è uscito fuori, insomma, un qualcosa che c'aveva a che fare col Medioevo, no? E io mi sono sempre detto... E poi questo qua adesso la trasformo un pochino. Ma voi immaginate una persona, tipo un cavaliere, vestito tutto in armatura, tutto il tempo, quanto poteva sudare in un periodo in cui a malapena si puliva nel culo? Insomma, io mi sono sempre detto, ma cioè, questa è una cosa che un giorno voglio trovare qualcuno. Ma cioè, come si gestiva l'igiene nel Medioevo? Perché veramente è la cosa che mi mette più... È vero che è un periodo un po' oscuro, un po' particolare, insomma, diciamo. Ok, e questa è una domanda fantastica, perché apre un argomento che è vastissimo, che è super interessante, tra l'altro. Perché, allora, tu giustamente dici, no? Un uomo in armatura, che stava tutto il tempo in armatura. Poi, non so, tu hai mai provato a indossare un'armatura, Simone? No, però me lo immagino. Cioè, nel senso, non ho la cognizione, però ho la capacità di immaginarmelo. Che... Ok, allora provo a guidarti in questa immaginazione. Tu immaginati di essere... voglio farti un esempio molto, molto vicino, diciamo, alle cose che rievochiamo noi. Periodo longobardo, diciamo tra il VI e il VII secolo, più o meno... immagina di essere una persona particolarmente facoltosa, quindi di poterti permettere di equipaggiarti molto meglio. Immaginati appunto innanzitutto di essere vestito con appunto braghe normalissime, ok, una tunica che arriva quasi al ginocchio, ok, questa proprio è il vestire base, okay. Quello standard. Poi, certo, okay. Esatto, poi immaginati di avere sopra una cotta di maglia e sopra ancora magari un corpetto di cuoio per aiutare, diciamo, la difesa dal punto di vista magari del taglio, perché, cioè, scusa, per le punte, per esempio, perché la cotta di maglia c'ha un pregio: funziona per il taglio ma non funziona per le punte o per i colpi d'impatto, okay? E quindi ci aggiungi il cuoio. Tu immaginati, così già di per sé non riesci a piegarti in avanti. Infatti. Immaginati poi che i tuoi pantaloni sono attaccati con la cintura, magari a questa cintura hai attaccato tutti i tuoi attrezzi. Di per sé, se tu andavi in battaglia, la prima cosa che dovevi aver fatto è aver fatto la cacca e la pipì, perché altrimenti, se tu ti trovavi in schieramento, dovevi metterti assieme ai tuoi compagni a proteggerti con lo scudo e non avevi la possibilità di tirare fuori quello che sappiamo per urinare, appunto, ti pisciavi addosso. Certo. Basta, cioè, giustamente è una cosa che potresti immaginare succeda anche a un soldato moderno. Alla fine, se devi mantenere la posizione, non puoi, diciamo, staccare gli occhi. Ti lasciavi addosso anche solo dalla paura, poi, cioè, nel senso, esatto, come... esatto. Quindi già di per sé era complicato in un momento concitato. Ma naturalmente l'igiene non era qualcosa non era sconosciuta all'uomo del passato. Naturalmente aveva delle versioni, diciamo. Esatto, aveva delle versioni molto, molto caserecce, se vogliamo. Però, per esempio, una cosa che è stata ritrovata molto spesso nelle tombe dei Longobardi, che venivano seppelliti con degli oggetti, naturalmente, per un lascito naturalmente molto più antico, molto più pagano, naturalmente. Già col cristianesimo queste cose si perdono, perché non ti serve niente nell'aldilà, non ti porti niente nell'aldilà, mentre magari prima si mettevano i soldi, si mettevano, certo, armi, si mettevano suppellettili. Insomma, una cosa che veniva trovato, per esempio, era uno spiedo di ferro che serviva per pulirsi i denti, per esempio. Una cosa che comunque le persone si rendevano conto che serviva, nonostante non ci fossero odontoiatri che ti spiegassero che le cari venissero per una certa, però si capiva, insomma, che l'igiene, per esempio, per i capelli, per la barba era importante, perché, certo, sapevi che ci venivano, che ne so, parassiti. Infatti anche gli uomini erano soliti avere dei pettini d'osso molto belli, si pettinavano i capelli e la barba molto spesso, sicuramente, e si usavano, per esempio, un'altra cosa interessante, erbe aromatiche. Per esempio, si mettevano sotto le ascelle o sull'inguine, per esempio, soprattutto per chi appunto andava a cavallo, per esempio, no? perché si capiva insomma che quelli erano i posti in cui si sudava di più, ci finiva proprio di tutto, ci finiva lo schifo naturalmente, e visto che erano le prime cose che emanavano cattivo odore, si pensava appunto che quelle andassero per l'appunto lavate in un certo modo o tenute comunque profumate in un certo modo, ecco. Quindi niente, l'igiene di per sé non era sconosciuta, era problematica sicuramente, ma era un qualcosa che appena ne avevi la possibilità te ne occupavi immediatamente. Beh, io infatti questa cosa, perché tu veramente immagina insomma una condizione un po' del genere, era... Tra l'altro io, non so se tu lo conosci, cioè, è uscito tipo l'altro anno un videogioco, un gioco di ruolo per PC e per console anche, si chiama Kingdoms Come Deliverance, che, uh-huh. Che è passato la storia per essere il gioco più realistico, diciamo così, nella storia dei videogiochi. In effetti è già di suo è un gioco molto difficile, cioè nel senso, perché anche dal punto di vista dello scontro, anche più banale, il danno è realistico, quindi cioè nel senso non è che ti cedi le spadate, poi dopo vabbè aspetti un po' e ti si recupera la vita, cioè no, lì comunque se c'hai delle ferite comunque le devi gestire in una determinata maniera, ad esempio, no? Certo. E quello che ti insegna per esempio è il fatto che comunque tu devi avere un certo tipo di cioè nel senso dal punto di vista del rapporto sociale, se puzzi e c'hai le mosche intorno, per farti riassumo, è chiaro che avrai un certo tipo di reazione da parte della gente che ti sta intorno, e il contrario se sei una persona che comunque dimostra di avere un minimo di decenza, insomma la gente si comporta in un'altra maniera, in un contesto in un contesto dove comunque alla fine tra fango e merda insomma c'era, tranquilli insomma nel senso, sì. Io parlo del popolano, cioè nel senso, io sto parlando chiaramente del nobile, del lord, che magari comunque in qualche maniera aveva comunque delle maggiori possibilità, anche magari anche una maggiore cognizione della cosa, no? Però magari poi il popolano che dormiva che le galline, cioè nel senso, comunque in qualche maniera, certo, è chiaro che c'aveva delle difficoltà più oggettive rispetto agli altri, però me la sono sempre domandata sta cosa, perché chiaramente non penso che non esistessero cose, no? Cioè, però dai, tante volte, ma io me lo domando pure sui romani, no? Cioè pensi i romani tutti gagliardi, tutti belli, no? Che andavano in senato, roba genere, ma come se lo pulivano il sedere? Cioè, non so, è una cosa un po' strana, no? Nel senso, però la domanda mi viene, oppure che ne so, le donne col ciclo, sai, cose un po' così. Perché alla fine, cioè, noi oggi siamo abituati e diamo per scontato il fatto che sia così, cioè che sia in come lo facciamo noi, ma in realtà per più di diverse migliaia di anni non è stato così, insomma, quindi evidentemente comunque l'uomo in qualche maniera qualche altra soluzione l'avrà trovata, suppongo, insomma. Beh, sì. Vabbè. Parlando di Kingdom Come, posso dirti una cosa? Cioè, ok, sì, lo conosco. Okay. Allora, lo conosco, okay. Non l'ho giocato perché purtroppo non ho strumentazione adatta per reggere certi giochi. Sì, purtroppo. Poi quello abbastanza ignorante, insomma. Quindi... Ho sentito che è nato con una campagna Kickstarter che è andata molto molto bene. E, ho sentito, diciamo, che ha avuto un sacco di problemi fra bug e cose, ma vabbè, non entro nello specifico perché non sono esperto. Però sì, nel senso, un gioco come quello secondo me è stato concepito nella storia è stato concepito sicuramente molto bene, perché teneva conto magari di cose che sembrano piccolezze ma che sono dei dettagli molto molto importanti. Dici tu, se ti presenti che puzzi come una capra di fronte a una persona, questa persona un attimo ti guarda e pensa magari questo qui ci dorme per strada o dorme in mezzo alle capre, quindi magari puoi determinare lo stato sociale di una persona proprio dall'odore che questa persona emana. Oggi basta che sali su un autobus e questa cosa, diciamo, viene un po' azzerata, perché magari vedi una persona vestita bene ma che puzza tremendamente, quindi diciamo ad oggi è un po' più difficile fare questo distinguo magari, oppure che ne so, senti le poesie d'amore del passato, una delle prime cose che esce fuori è che magari la prima cosa che ti resta in testa è il profumo di una persona, il fatto che si adorni i capelli con i fiori, ste cose, capito? Però che sono alla fine sono un dettaglio che non è da poco, ecco. No, no, vabbè, infatti, vabbè, poi in realtà la cosa bella di quel gioco è che comunque poi racconta, cioè nel senso esula il gioco di ruolo che uno tante volte lo associa al fantasy medievale, no, in realtà lì ti racconta un fatto storico ben preciso che riguarda insomma l'area lì di Repubblica Ceca, che oggi sarebbe insomma la Repubblica Ceca, quindi l'invasione dei tedeschi, insomma adesso non so bene la come Boemia, so. Sì, la Boemia, esatto, quindi insomma cioè nel senso poi lì c'è anche un rapporto storico con una cosa del genere, che poi tra l'altro a me tutta quella che è la narrativa del periodo dal 1100, 1300, 1400 comunque è una cosa che mi ha sempre affascinato tanto, soprattutto quando poi appunto la cronaca è quanto più cruda e realistica possibile, perché veramente erano tempi particolari ma allo stesso tempo anche affascinanti, cioè comunque lì si sono poste le basi nel periodo, un periodo così oscuro, così difficile, così illiberale, così diciamo pieno di soprusi, pieno di difficoltà, dove anche la Chiesa aveva comunque una sua posizione determinante e roba del genere, comunque alla fine in qualche maniera si sono messe le basi per un ulteriore salto evolutivo successivo che poi alla fine insomma è stato interessante, quindi alla fine è comunque curioso esplorare un periodo in cui noi lo vediamo, io ho detto lo vediamo sempre così in maniera generica e diciamo ah ma quant'era lontano da noi, che schifo, questi cagavano nei secchi, in realtà c'è veramente tanto altro, no? E infatti è vero perché poi non so se tu, cioè basta veramente che uno faccia un giro anche così sporadico in ambienti in cui si parla di storia ed effettivamente c'è una bella ripresa magari della in difesa del Medioevo, perché purtroppo che è successo nell'Ottocento, in un momento, capito, di decadentismo, di romanticismo, così si sono fatte molte congetture sbagliate sul Medioevo, lo si è molto demonizzato come secolo oscuro, come il momento storico veramente pessimo per l'umanità, pieno veramente di soprusi, si sono costruite storie alle volte molto false. Per dirti, ad oggi nel mondo ci sono musei di tortura medievale, ma la gente non sa che quelli sono strumenti che alle volte sono dei falsi storici incredibili, cioè tutti gli strumenti di tortura che si sono effettivamente, che sono stati attribuiti alla Santa Inquisizione, la maggior parte non esistono, sono appunto delle suggestioni che sono venute molto dopo, appunto per omaggiare il romanzo, capito, il romanzo gotico, il romanzo di un certo tipo, perché dovevano raccontare un'epoca che facesse paura, che facesse appunto che raccontasse un momento molto molto spaventoso per l'umanità, capito, per dire meno male che siamo arrivati in un momento così in cui c'è la scienza, in cui c'è, capito, e invece ad oggi finalmente si è ripreso in mano questo concetto e si è detto no raga, perché gran parte degli storici che sono esistiti allora dicevano un sacco di cavolate per portare avanti un punto che non è la realtà. Oggi si fa una ricerca storica molto più seria che tiene d'occhio le vere fonti, le antiche fonti, si analizzano per l'appunto delle congetture che sono state fatte nel corso della storia e le si contestualizza con i fatti, con il reale per l'appunto. Raga, Medieval non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando. Quello è il gioco che piace tanto a Davide Gatti. Comunque noi consideriamo anche il fatto che sì, cioè nel senso diamo poi alla doppia anima della Chiesa, no? Quella più oscura e poi alla fine dall'altra parte indirettamente anche quella più illuminata, no? Nel senso comunque tu pensa a tutte le cattedrali, tutto il lavoro monastico che è stato fatto, il recupero dei codici, la copia dei manoscritti certo. dagli scriba e tutto quanto, cioè, nel senso alla fine c'è stato un lavoro di conservazione e di progettazione, perché qui mo ci arriviamo anche sulla questione, perché con Leo noi l'altro giorno parlavamo proprio delle battaglie medievali, no? Cioè nel senso, nelle battaglie medievali, ritorno a dirlo perché questo è importante, uno vedeva due eserciti, uno con i pennacchi, l'altro con gli altri pennacchi, e questi si scontravano e si davano le botte, e quelli che erano di più vincevano, no? Questo è un po' diciamo l'immaginario che uno si poteva fare, anche se poi un po' esatto. il trono di spade in alcune sequenze secondo me un po' ci ha un po' svelato il fatto che esistessero comunque delle tattiche, delle formazioni, no? E sì, quindi se non consideriamo l'ultima stagione, perché lì c'è la battaglia forse più stupida che sia mai stata concepita. No, vabbè, no, l'ultima stagione, io parlo per esempio alla battaglia dei bastardi, no? Cioè nel senso, sì, quando loro bella, poi sono stati accerchiati dall'esercito che li stringeva sempre di più fino praticamente a massacrarli, no? Fino a che poi dopo non è arrivato l'altro esercito che ha rotto praticamente di lato tutta la formazione e quelli sono stati costretti a battere di tirata, no? Cioè, certo. Comunque, alla fine, l'uomo in un periodo come quello che noi consideriamo solo brutale e barbarico, in realtà era pieno di ingegno. A volte forse per le cose sbagliate, no? Però c'era un grosso potenziale dal punto di vista proprio della concezione, dell'immaginazione, della costruzione di macchinari, della scienza. C'è tutto un lavoro dietro che poi dopo magari nel Rinascimento si è amplificato di più, no? Perché poi chiaramente dopo il Rinascimento bisogna battere le mani al Rinascimento, se no si offende, no? Però in realtà tutto nasce anche da prima, no? Niente nasce da zero, no? Quindi esatto. Io penso gli eserciti come erano composti, no? Nel senso, le macchine da guerra come erano composti, e poi noi parlavamo del fatto, e qui poi lascio tutto a lui così va a ruota libera, cioè noi dicevamo quelli che stavano in prima fila erano spacciati, e Leo mi risponde no, quelli che stavano in prima fila erano quelli che venivano guadagnati, che guadagnavano di più, proprio perché facevano il lavoro più potenzialmente pericoloso. Ho detto vabbè, ma li paghi sì di più, tanto non glieli dai i soldi, muoiono, no? Nel senso, invece non è così scontato il fatto che muoiono, insomma. Quindi come funzionavano queste cose? Che me... Allora, bisogna considerare così, tanti aspetti. Allarghi i campi, cioè non è che possiamo... Ok, nel senso, okay. Sì, no, adesso senza analizzare praticamente storia per storia, naturalmente, però bisogna considerare una cosa, per dirti, ti do il mio esempio personale, quello che appunto vivo grazie alle rievocazioni. Quello che noi facciamo come rievocazione storica principalmente è appunto mostrare alle persone un gruppo militare di Longobardi, per l'appunto, e quindi allestiamo il nostro accampamento, facciamo vedere le nostre piccole attività, naturalmente, e quando appunto ci mettiamo in battaglia c'è una formazione da seguire. Naturalmente, anche qui Vikings ha detto una cosa giusta nel mare di cose sbagliate, perché per esempio lì vediamo molto spesso, vediamo lo shield wall, come lo chiamano loro, che non è non è falso, è vero, era effettivamente una cosa che sappiamo funzionava, e lo sappiamo anche perché i romani stessi con la testuggine praticamente avevano fatto la loro versione, quindi sappiamo che muoversi in formazione ordinata, darsi forza a vicenda, creava una macchina praticamente inarrestabile e vinceva praticamente lo schieramento che riusciva a mantenere l'ordine in questa cosa. Quindi sì, anche Game of Thrones ci ha dimostrato che le battaglie si vincevano sì con la forza, con la brutalità, con l'impeto, esatto, con dati effettivamente oggettivi, cioè il numero, la forza e la preparazione, ma si vinceva principalmente con politica, strategia e sicuramente equipaggiamento, perché un popolo, per esempio, cioè un esercito che era per esempio armato meglio, che era stato magari guidato da grandi condottieri che vedevano come soldati, come dei effettivamente in mezzo a loro, erano più sicuramente più portati a seguire gli ordini, erano più disciplinati, concentrati, attenti e dritti verso l'obiettivo. Farsi sentire, riuscire a passare un ordine fra i vari gruppi comunque dell'esercito, perché naturalmente bisogna capire che, come dici tu, nel senso, era un'epoca buia, sì, ma questo aguzzava sicuramente l'ingegno. Dobbiamo certo. Sempre ricordarci che per sopravvivere alla giornata bisognava adottare una strategia. Per esempio, un'altra cosa che viene spesso citata, per esempio, L'arte della guerra di Sun Tzu. Io personalmente non l'ho letto. Ad oggi è letto solamente, per esempio, da manager, da persone appunto che cercano di arrivare in ambienti che non sono quelli militari prettamente, però diciamo l'allegoria delle cose che diceva Sun Tzu sicuramente ci spinge naturalmente a fare meglio determinate cose, però naturalmente dobbiamo capire che i popoli ovviamente avevano bisogno di seguire delle direttive, non potevano andare a casaccio. Anche il popolo più scalmanato, anche il popolo meno organizzato aveva delle strategie. Ti cito una battaglia, la battaglia di Teutoburgo, una cosa che ancora gli storici dibattono perché non si sa dove sia avvenuta nello specifico, non si sono ritrovati per l'appunto i pezzi specifici in cui è avvenuta. Come funzionava? Praticamente l'esercito romano, che era stanziato in Germania, nella foresta di Teutoburgo per l'appunto, stava attraversando questa foresta, e come attraversava la foresta? Praticamente in fila indiana, praticamente creava questa fila indiana. Uno dei romani, per l'appunto, che però non era veramente romano, era germanico di origine, si riunisce alle tribù germaniche e combatte assieme a loro sfruttando le informazioni che aveva appunto adottato stando in mezzo ai romani. E quindi come facevano? Loro si appunto le varie tribù germaniche si mettevano appunto magari su un'altura, su una collina più alta, e attaccavano pezzi di questo schieramento che appunto stava camminando in fila indiana. Non potendosi questi organizzare in maniera, per l'appunto, in maniera ordinata, venivano decimati di volta in volta, e questi praticamente andavano come uno sciame, attaccavano e poi tornavano in alto, poi attaccavano e tornavano in alto. E quindi anche qui la strategia ha vinto più che la forza. Poi ovvio, nello scontro brutale sicuramente chi è più incazzato vince, cioè mettiamola così, chi è più grosso, chi è più diciamo che si sente di avere meno da perdere sicuramente crepa di meno, ovvio. E per quanto riguarda invece la cosa, posso fare solo una domanda, poi dopo sì, ti ricolleghi, ricordate dove sei arrivato, sì, dato che parlavi di battaglie, per esempio io vorrei sapere una tua opinione sulla battaglia di Stirling, cioè quindi lo scontro tra scozzesi e una famosa cosa raccontata, no, nel libro, cioè nel film proprio di Braveheart, che però poi comunque è storicizzato come evento, però poi chissà se poi dopo alla fine in qualche maniera è veramente, cioè quelli stavano col culo di fuori e quell'altro erano tutti bardati allora se è veramente come è andata, insomma. Allora, sulla battaglia in sé non ho molto da dire perché non la conosci, dici. Non la conosco così bene in realtà, però posso dirti una cosa, nel senso, ovviamente il film portato lì con gli scozzesi tutti vestiti in quella maniera è una cosa molto romanticizzata. Gli scozzesi, sì, nel senso, usavano e usano il kilt naturalmente, ma si sa che appunto William Wallace era effettivamente un nobile, si vestiva da nobile. Questo nel film all'inizio lo dicono, cioè nel senso, però no, io parlo, sì, parlo, anche essendo stato a Stirling, essendo stato in Scozia, no? Uh-huh. E c'è questa meravigliosa spianura collinosa, insomma, dove c'è stata sta grande battaglia, no? E c'è questo monumento a un certo punto dove praticamente ti racconta, insomma, quello che cioè, alla fine loro con orgoglio si definiscono, cioè, no, adesso non te la dico come l'hanno poeticizzata loro, però cioè noi eravamo quattro pecorari, questi erano venuti tutti con la cavalleria e noi gli abbiamo rotto il culo, insomma, fondamentalmente. Insomma, io penso che lì allora forse, cioè nel senso, a volte è un po' come dici te, magari la compattezza e la risolutezza in qualche maniera ha sopperito magari a una mancanza tattica o forse a, come dici te, magari a una mancanza di equipaggiamento, può essere? Alle volte sì, alle volte funziona, perché se facciamo un altro esempio, le Termopili, un altro esempio famosissimo, cioè certo. Pochi contro tanti che comunque hanno resistito, cioè non è che quattro pecorari, comunque ti posso assicurare che sono abbastanza incarogniti da tirare giù un uomo a cavallo. Comunque ricollegandoci con Kingdom Come, no? Anche lì, nel senso, non è che la vita non funziona che tu sali di livello e sei più forte di un altro. Sicuramente no, ti certo. Puoi allenare, certo. Però ti può capitare il giorno in cui magari trovi uno che è più incazzato di te, che non ha mai tenuto in mano una spada, certo. Però magari è uno che per tutta la vita ha tirato giù alberi a colpi d'ascia. A colpe di capocciate anche cioè, quello magari che ne so, c'è cioè, il giorno una zappa, con la zappa ti gambizza il cavallo, tu cadi a cavallo e muori, cioè, certo. Si può morire con le cose più stupide, quindi è ovvio, è una commistione di fattori molto spesso. Io ripeto, quella battaglia non la conosco nello specifico, quindi non posso commentarne l'accuratezza storica sicuramente, è ovvio, certo. Però diciamo che secondo me Braveheart comunque ha seguito comunque quello che è stato, quelli che sono stati gli eventi, poi ovvio come te li presenta il cinema, sì, lo fa per lo spettatore. Sì, diciamo che la narrazione in generale è abbastanza coerente con quello che è gli eventi storici, è quello che sta dentro poi che in realtà, perché alcuni dicono anche che comunque anche il modo in cui muore William Wallace alla fine non sia mai stato documentato realmente, quindi cioè nel senso non, come tutte le cose, insomma, poi alla fine loro cristologizzano un po' tutto, no? Cioè alla fine comunque ci deve essere la persona che deve essere martirizzata piuttosto che diventare un eroe in un'altra maniera, insomma. Quindi, ma comunque dai, torniamo un attimo a quello che volevi di te, perché poi dopo la curiosità mia è un po' come se c'era un ordine di composizione di questi eserciti o che ne so. Allora bisogna considerare una cosa. All'inizio, diciamo, si combatteva molto più per l'onore. Cioè, io penso comunque l'esercito longobardo, comunque, tu devi pensare che era formato sostanzialmente da persone che fin da piccole erano introiettate nel mondo della guerra. Cioè, perché tu devi immaginare comunque che il mondo germanico, il mondo scandinavo in generale, comunque viveva con quel pantheon, con quelle figure mitologiche e così. Già solo il fatto di pensare che se tu muori per malattia vai all'inferno sostanzialmente, cioè non hai il premio finale, già solo questo fatto ti crea un'ansia incredibile e tu capisci che il tuo destino è segnato dal semplicemente crepare di mazzate o venire crepato di mazzate da qualcun altro, altrimenti non funziona, altrimenti l'unica alternativa è invecchiare e poi suicidarti tirandoti giù da una rupe, no? C'è quest'altra cosa, no? L'alternativa per gli anziani era questo, cioè visto che tu non avevi più la forza di servire nell'esercito, certo, la tua alternativa era crepare in maniera tra virgolette onorevole buttandoti giù da una scogliera, insomma, per andare nel Valhalla, insomma. E quindi qual era il fatto? Che prima, per esempio, i Longobardi c'avevano questa cosa, cioè tu fin da piccolo servivi nell'esercito. Quando tu avevi la possibilità, cioè quando tu raggiungevi una certa età che poteva, che significava la tua maggiore età, a un certo punto poteva essere 14 anni, ok? Poi piano piano si è arrivati a 18, naturalmente, con l'innalzarsi della vita media, col progredire di una civiltà sempre meno bellicosa, diciamo. Però all'inizio c'era questo fatto, nel senso che tu a un certo punto della tua vita dovevi dimostrare di essere in grado di difendere la tua fara, cioè la tua famiglia. Fara significa appunto famiglia, non so, ci sono tanti paesi qui dalle mie parti per esempio che come frazione hanno proprio la fara, cioè è proprio un termine che arriva dalla lingua longobarda, per l'appunto. Fara significa famiglia, significa è appunto un agglomerato di persone. E appunto da lì appunto tu sai che dovrai servire il tuo re quando ti verrà chiesto, tu dovrai essere pronto, prendere le spade in pugno, la tua arma, quello che avrai in casa e partire per servire l'esercito, per servire i Longobardi, comunque il popolo longobardo, e portare onore. Poi dopo di questo, diciamo, i tempi cambiano e naturalmente iniziano come spartani, praticamente, insomma. Sì, perché comunque anche gli spartani che sono stati fra i primi mercenari della storia, se ci pensi, perché comunque venivano proprio comprati i soldati spartani da mettere nell'esercito, perché venivano ovviamente comunque costruiti con una cultura marziale, no? Cioè, esatto. Esatto, cioè comunque le culture marziali nel mondo ci fioccano, cioè pensiamo agli spartani, i longobardi, che ne so, anche i samurai giapponesi, no? Cioè, per dirti un esempio che può essere veramente all'estremo, ma che comunque condivide una certa incazzatura nella costruzione, ecco. E adesso arriviamo appunto a quello che stavamo dicendo l'altra volta. Cioè stavamo parlando per l'appunto degli eserciti che vedevano nella loro formazione i lanzichenecchi. Ok, siamo qui, siamo nel più o meno XVI secolo, ok, nel 1500, inizi 1500, fine 1400 per l'appunto, e i lanzichenecchi chi sono? Sono dei mercenari, sono delle compagnie mercenarie tedesche che del Sacro Romano Impero per l'appunto, che venivano per l'appunto assoldati per stare nelle armate, per appunto per vincere le guerre, perché questi chi erano? Erano dei soldati molto specializzati che erano addestrati all'uso di alcune armi molto specifiche, perché l'uso di queste armi effettivamente era un modo per aprire le formazioni, per che ne so, salvaguardare per esempio i reparti laterali dell'esercito che erano molto più esposti, per esempio, per dirti nelle ali dell'esercito, per esempio c'erano i picchieri che magari al loro fianco, magari quelli che erano più all'esterno erano scoperti, magari venivano pagati i lanzichenecchi per proteggere questi fianchi per l'appunto, così che la formazione non si spaccasse, oppure venivano messi davanti questi magari usando uno spadone a due mani oppure una Carlsberg, che è una spada particolare che avevano loro, per l'appunto dovevano rompere le picche degli avversari. Le picche che cos'erano? Erano delle lance semplicemente molto molto lunghe che servivano per tenere lontani i nemici. Sì, sì, le picche, se tu però e se tu hai una spada comunque bella massiccia, bella ignorante, puoi appunto mulinare l'acciaio per rompere il legno, per l'appunto. Anche se stavo leggendo proprio oggi, così mi stavo un attimo rivedendo un po' di appunti, che anche l'utilizzo dello spadone nelle formazioni è ancora in dibattito, perché sì, nel senso, di per sé può essere sensato come cosa, ma effettivamente bisogna anche considerare che se tu metti tanti uomini compatti a mulinare spade molto grosse, molto lunghe, magari a destra e a sinistra, rischi che questi si colpiscano fra di loro. Quindi magari c'era anche un modo diverso di disporli queste persone, magari li mandavi davanti da soli. Ho visto, stavo sempre rivedendo anche oggi, ma l'ho visti anche nel passato, comunque stavo vedendo comunque piccole miniature in cui magari questi magari si lanciavano contro i nemici, contro gli avversari, per schermagliare, per dare fastidio, per bloccare l'avanzata del nemico. Stile veramente uomo contro carro armato in piazza Tiananmen in certi casi, però, però bisogna sempre ricordare che questi vivevano per combattere, erano iperaddestrati, è come un soldato di quelli ultra specializzati di oggi, no? Nel senso, esatto, cioè, come pensiamo un cecchino, uno sminatore, uno che fa solo quello di mestiere, quello dice: oh, questo è il mio momento, un corpo speciale, magari... no? Di quelli che comunque sono talmente addestrati a fare quello che lo fanno a occhi chiusi praticamente, insomma. Quindi poi vabbè, esatto, magari le conseguenze lì potevano essere un po' diverse, però se pensavo a questi che mulinavano con gli spadoni giganti, se ti prendeva un crampo sulla spalla era che esatto. Poi quindi praticamente sti spadoni non è così accertato che venivano utilizzati in battaglia. E se non venivano usati in battaglia, quando venivano usati sti spadoni giganteschi ad umani? Cioè, nel senso... Allora, innanzitutto, vabbè, vedila così, vedere era un uomo... un simbolo, penso, no? Cioè, nel senso, era uno status simbolo, effettivamente, perché vedere un uomo con uno spadone in mano già ti metteva molta soggezione. Cioè, poi devi considerare anche una cosa, cioè i lanzichenecchi, se tu li vedi, sono personaggi che andavano vestiti molto sgargianti, avevano questi vestiti a sbuffi veramente che facevano, cioè oggi quasi sembra quasi una carnevalata, ma tu immagina veramente vedere un uomo con un pezzo d'acciaio gigantesco alto quanto lui, magari era pure grosso, così tutto colorato, in senso, cioè, già ti cagavi sotto perché sapevi che questo stava venendo lì per te e che il primo che avrebbe mai crepato di mazzate saresti stato tu. E quindi sì, nel senso, si dibatte sul vero utilizzo dello spadone in battaglia, anche se magari non si sa se si usava sempre comunque in formazione, però si sa che comunque se c'avevi uno spadone lo sapevi usare e volevi, nel senso, portarti gloria e portare disordine a casa del nemico, te lo portavi lo spadone e ti ci facevi vedere assieme, anche perché dobbiamo sempre ricordarci, poi i giochi di ruolo quello che ci hanno insegnato è che se c'è lo spadone non c'è lo scudo. Esatto. Quindi o stai imbriaco, pappo, e quindi, nel senso, non senti il dolore, non senti proprio niente, e quindi vai fino a che non te tagliano la capoccia, e quindi questo. Certo. E comunque Michela, presa da un attacco di delirio, ci dice che gli è venuta voglia di buttarmi in un assembramento e correre incontro alla morte con la sua armatura, va bene. Con la mia spada e la mia armatura, e io ti ci vedo, Michela, cioè sì, dovresti... Sì, dovresti provarla come esperienza, sicuramente. Come è molto edificante, no? E ti toglie un sacco di... Aspetta. Che dice? Aspetta. Dicevo che morirei subito, cioè proprio neanche il primo passo, ma morirei così ma felice. Secondo me tu non moriresti, lo sai perché? Perché ora che tu stai a correre, quelli sono già arrivati, si sono già ammazzati tutti. Cioè sarebbe una liberazione. E lei, sto a correre, sto a venire, come è? Quelli intanto si sono già massacrati tutti. Guardate, raga, questa puntata è fantastica, veramente, cioè io ti sto a seguire proprio, ciao. Sei appassionata, sì. Vabbè, continuiamo. L'altro utilizzo che si poteva fare dello spadone, ed è una cosa invece molto più accertata, è nei duelli, cioè nei duelli individuali, per l'appunto, perché la grande versatilità dello spadone garantiva comunque la possibilità di utilizzarlo in tante maniere diverse, per l'appunto. E quindi anche nel duello così si poteva scegliere come arma. Beh, se eri forte, poi davi una bella mazzata, cioè, nel senso... Sì. Cioè, comunque l'impatto, la potenza, vedi, in un'arma così era sicuramente diversa. Vabbè, certo che era una cosa difficile, cioè, nel senso, io penso pure magari nelle diatribe, negli scontri magari a più picco, cioè il fatto di dover infilzare una persona, cioè certo ci voleva proprio, vabbè, ma lì era, penso insomma, anche culturalmente, prima pure leggendo altri libri comunque ti rendi conto che quello che oggi noi abbiamo come visione comportamentale era completamente, cioè sarebbe stata una cosa completamente aliena per loro, cioè nel senso comunque la normalità era tutta un'altra storia, insomma, quindi ci sta, insomma. Vabbè, io... C'è Lucio che c'ha una domanda. Ah, vai Michela, vai. Mi sentite? Sì, sì. Ah, se okay. Parli te sentiamo, se non parli, no, Lucio chiede, bisognerebbe chiedere sempre al maestro il rapporto con animali dell'uomo del Medioevo. In che senso, Lucio? Abbiamo capito la domanda, però. Infatti, no, spiega. Il rapporto con gli animali, che rapporto ci aveva l'uomo del Medioevo? Sì, è inutile che provi a spiegarla tu, la spiega lui, perché... Lucio, spiegaci la domanda. Perché il rapporto, cioè, io penso al contadino che è andato a pasciare le pecore. No, io penso che il guerriero... Penso che se Lucio intenda questo proprio... nel senso cani e gatti, diversi sicuramente. Diverso, sì, comunque sì. Il cane è sempre stato, diciamo, figura sicuramente amica dell'uomo, sì, cioè sì. I cani da caccia sono sempre stati usati, i cani da pastore sicuramente. Diciamo che non c'era l'attenzione per il cane come ce l'abbiamo oggi, però sicuramente... Perché comunque bisogna sempre ricordarci che il cane sta nei blasoni, comunque sta nelle iconografie, cioè abbiamo anche le volpi, cani, però comunque... non è che ti tieni la volpe dentro casa, cioè nel senso, fate un esempio, cioè nel senso, da quello vabbè che... poi ovvio, nel senso, se una cosa riesce ad ammaestrarla bisogna, cioè per dirti un altro esempio, nell'antico Egitto comunque si addestravano i leopardi ed è una cosa vedono anche nei geroglifici, quindi vabbè, i mastini della guerra come diceva Shakespeare, no? Cioè, nel senso... anche nei testi, credo che nei testi antichi comunque del ci siano comunque ma rapporto con i cani c'è sempre stato. Se ci fossero connessioni magiche, chiede Lucio, allora forse il gatto veniva visto, il gatto un po'... sicuramente, cioè sappiamo comunque che è sempre stato associato comunque alle streghe, sì, certo, infatti si sa che anche la moria di gatti che è stata fatta ai tempi è stato sicuramente un fattore che ha portato la peste, perché meno gatti vuol dire più topi e vuol dire più fattori di contagio sicuramente, però è ovvio, gli animali venivano sempre considerati da culture antiche, comunque anche nel Medioevo, di grande spessore per quanto riguarda il significato. Pensiamo per esempio, ricollegandoci sempre alla scherma, uno dei maestri di spada più famosi, Fiore dei Liberi, nel suo Flos Duellatorum, cioè il suo manoscritto più importante, il suo manoscritto più famoso, aveva posto quattro animali a simboleggiare le quattro virtù dello schermidore, cioè la lince, la tigre, il leone e l'elefante. E questi rispettivamente erano, la lince era la prudenza, la tigre era la celeritas, cioè la rapidità, la velocità, il leone che regge il cuore, l'audacia, mentre l'elefante la fortezza, cioè l'essere forti per l'appunto, l'essere tenaci, l'essere belli temprati, insomma. Quindi sì, l'animale nelle sue caratteristiche è sempre stato comunque associato a delle virtù o alle disgrazie dell'uomo, il serpente, il gufo. Il serpente poi è un altro bel esempio, perché sta proprio a cavallo fra il mondo cristiano e il mondo pagano, perché se prima il serpente era un simbolo di saggezza, perché il serpente cosa fa? Cambia la pelle, cioè si evolve, riesce ad adattarsi alle situazioni. Ci sono serpenti che vivono vicino ai corsi d'acqua, vivono nei posti più aridi del mondo, quindi si adatta, ma nel mondo cristiano naturalmente il serpente viene associato al diavolo, quindi magari sparisce anche dai paramenti, dalle decorazioni di un certo tipo, ecco. Beh, tra mito e metafora, l'animale veniva sempre utilizzato sì, come rappresentazione o qualcosa, è chiaro. Noi gatti siamo sopravvissuti a tutto, grande Davide. Vabbè, senti, io ci avrei 150.000 domande, ma se ci ritorniamo anche, che dici? Come preferisci, io sono sempre qui, perché... fino a data da destinarsi. No, vabbè, ma poi se ci organizziamo anche in tempi brevi, perché in realtà ci sarebbero altri capitoli che mi si sono aperti mentre che ragionavamo, però cioè se tiro fuori adesso famo mezzanotte. E so che a te ti piacerebbe parlare di cose che ti piacciono, però noi cerchiamo sempre di nella terza live oggi, quindi sì, lo so, certo. Voi state facendo un lavorone incredibile, infatti sul serio io vi stimo veramente tanto, voi dei Runtime, perché vi state veramente facendo il mazzo per noi ascoltatori, sul serio. Il mazzo, perché sì sì, no, ma a me questa cosa, che poi uno ci riflette, no, nel senso, quanto la gente conosce di un periodo veramente così, così particolare, che vedi poi alla fine, mo forse noi, l'errore è di averla pubblicizzata un po' poco sta puntata, non ci ho avuto tanto tempo per fare questa cosa, però la domanda di Lucio comunque poi alla fine mi fa aprire tutta una serie di curiosità comunque collegate sempre all'uomo, al rapporto, perché poi vabbè, se noi al Medioevo, il Medioevo è le sole guerre, cioè sono le battaglie, cose, tirano i frecci, vabbè, le cose, sì, le cose che ci ricordiamo perché fanno più rumore sicuramente. E invece in realtà secondo me ci sarebbero sempre cose legate comunque in qualche maniera, però ecco, magari parlate di come funzionavano, che ne so, ecco, come venivano scelti, che ne so, gli stemmi delle casate, come funzionavano un po' le cose. Insomma, ah, l'araldica, bellissimo, bellissimo, cioè, nel senso, questa cosa mi ha fatto venire, però appunto questo è un tema che in qualche maniera magari possiamo indirettamente, poi per quello che sappiamo, insomma, nel senso, magari trattare un po' nelle prossime puntate. E invece no, ritorniamo un attimo a te, perché ricordiamo che appunto Leo fa parte di questa scuola, che è anche tra virgolette un'associazione, suppongo. Sì, okay. Associazione culturale sportiva. Esatto, culturale sportiva, che oltre a fare chiaramente la scherma, cioè quindi a fare una scuola insomma di spada, chiaramente fanno anche rievocazioni. Rievocazioni si intende tutto quelle occasioni nelle tantissime infinite feste medievali che ci sono nel nostro paese, che è praticamente un patrimonio infinito dei borghi e di cittadelle, cioè quindi c'è, cioè, tutto quel mondo insomma che ci è rimasto attaccato addosso, che è veramente meraviglioso, dove tante volte magari c'è la possibilità, dove c'è l'organizzazione, dove c'è comunque l'interesse storico, magari si fanno rievocazioni, quindi parate, ricostruzioni, battaglie o cose del genere, perché poi anche battaglie, no? Cioè fate pure cose. Raccontaci un po' questo aspetto, così poi andiamo a chiudere. Vuoi parlare delle battaglie? No, voglio parlare di quello che fate voi quando andate, cioè quali sono quelle tipi di attività che fate quando fate queste vostre estemporanee, esterne, insomma, cioè, estemporanee non credo, però esterne, insomma. Allora, la rievocazione sicuramente è un mondo molto vasto che tocca tantissimi punti, tocca l'artigianato, tocca la ricostruzione, tocca la battaglia sicuramente, l'aspetto marziale e tante altre cose. Noi ci siamo ritrovati veramente nelle situazioni più disparate, partendo dalla nostra piccola nicchia, che comunque è bella grossa, dell'arte del combattimento. Ripeto, come rievocatori siamo principalmente portati a mostrare come si combatteva, a far vedere diversi aspetti della vita marziale. Per esempio, una cosa bella che noi facciamo vedere sono due cose legate al mondo militare longobardo, che sono per esempio il giuramento dello Scramasax e l'ordalia. Il primo rappresenta per l'appunto quello che ti dicevo, il passaggio dell'età adulta di un giovane che appunto raggiungeva una certa età in cui finalmente poteva confrontarsi con gli adulti e quindi prendere parte proprio al mondo degli adulti, però di per sé doveva guadagnarselo. E come te lo guadagnavi in un mondo del genere, con la cultura che c'era e che aveva formato quel popolo? Ovviamente dimostrando che tu sapevi combattere, sapevi difenderti, sapevi difendere te e chi ti stava vicino. Quindi si faceva il giuramento dello Scramasax, che noi adottiamo una ricostruzione che abbiamo fatto nostra, che prevede due passaggi sostanzialmente. Il primo è quello di cantare tecnicamente i nomi dei tuoi antenati, significa letteralmente ripetere i nomi dei tuoi avi, perché una cosa importante è quello appunto di far capire tu di chi eri figlio. Perché appunto c'è ancora questa cosa che le anziani ti chiedono: di chi sei figlio tu, no? No, che hanno, cioè, a Monterotondo è una pratica. Però questa, dobbiamo ricordarci, grande, che tu hai visto, hai visto? Allora ci ascolti. Tutto il mondo è, ma guarda che in realtà, cioè, io Mo io te parlo in marchigiano perché so, perché io so de Fermo, porca puttana. Cioè io vivo a Fermo, so de, so de Montefargo Appennino io, quindi non, le vecchie che te dice di chi figlio ci, nel senso, è proprio una tradizione che arriva da un mondo lontanissimo. Dobbiamo ricordarci sì, che, vero, che la, la tradizione contadina prende moltissimo anche da, da cose de, del passato, ma tanto passato, non di, tan, non, di tro, non di poco tempo fa, ma di tantissimo tempo fa. E anche capire tu di chi, da dove vieni, chi è la tua famiglia, chi sono i tuoi avi, ti, ti condiziona, fa, ti fa capire chi sei e da dove vieni. E quindi sapere chi sei e da dove vieni è un segno, certo, di chi, de, del fatto che tu sei consapevole del tuo valore. E quindi già di per sé c'è appunto questa cosa, nella cultura che è scandinava, il padre dava il nome alla famiglia, no? Cioè, esatto, quindi, esatto, i figli si chiamavano John, come son, il padre, son Patrick, son, sì, esatto, sì, esatto. Esatto, è una cosa che appunto rimane anche nella cultura longobarda, tant'è che quando tu devi cantare i nomi devi prima dire il nome e poi aggiungere la parola sunu, che appunto viene da son, per l'appunto, dal, dal ceppo germanico, certo, di, certo, di quella lingua, certo. Dopo di questo, a che generazione devi cantare i tuoi avi, per esempio? Cioè... Fino alla settima almeno, però cioè, dipende poi da, da, sicuramente dal tipo di posto dove stavi, sicuramente non so se fossero veramente così tanto stringenti, non so se la legge prevedesse proprio che dovessero essere sette, vabbè, generazioni, okay, quelle, sì. Però di per sé bisognava capire tu di chi è, di chi eri figlio, insomma. Dopo di questo dimostravi il tuo valore combattendo magari con un veterano, con, o con qualcuno magari designato per dimostrare che tu fossi forte. Non era importante che tu vincessi il duello, che tu vincessi il combattimento, ma che dimostrassi di essere pronto per l'appunto a servire, certo, in battaglia. E degno anche magari. E degno. E una volta fatto questo, ti veniva, una volta che tu magari superavi questa prova, ti veniva regalato lo Skramasax. Che cos'è lo Skramasax? È un'arma per l'appunto rituale, per, ma se ci pensiamo è la cosa più semplice che noi potremmo trovare, è un coltello. Storicamente è un coltello. Skramasax significa che taglia il cibo, o coltello da cibo, per l'appunto. È una posata, insomma. È una posata, sì, sì, perché è uno strumento che potevano portare solamente gli uomini liberi, o cioè gli uomini che potevano servire nell'esercito potevano portare con loro le armi. Gli schiavi o le persone che non erano, per l'appunto, degni di questo onore, non avevano con sé un'arma. Di conseguenza, poi ovvio, all'occorrenza prendevi cani e porci per aiutarti a, a vincere le guerre, però sicuramente nel mondo onorevole, se tu non avevi un'arma con te, probabilmente non, non te l'eri ancora guadagnata o eri troppo piccolo per questo. E lo Skramasax, per l'appunto, storicamente è un coltello, ma sappiamo che ce ne sono di versioni più ricche, ce ne sono di versioni più povere, a seconda naturalmente di quello che potevi permetterti, ma di per sé almeno uno ti veniva regalato proprio dal, dal gruppo, insomma, dal, dalla cerchia, dal tuo popolo, insomma, perché dovevi, era un'arma, per l'appunto, era un regalo che tu mettevi al servizio stesso del, della collettività, in qualche modo, che sì, la usavi nella vita di tutti i giorni per tagliare il pane, la carne, quello che serviva, ma anche per sbudellare i nemici se era necessario, insomma. Quindi è un momento molto importante da ricordare, sicuramente attraverso la rievocazione. L'altra cosa è l'ordalia, la faccio molto più semplice. Quando non c'era modo di risolvere una questione in altro modo, le persone potevano richiedere ad un'autorità, che poteva essere il duca, o addirittura, se avevi la fortuna, un principe, un re, di risolvere una questione con un'altra persona attraverso un duello, e chi vinceva il duello, per l'appunto, aveva ragione di fronte a Dio o agli dei, se, se per l'appunto c'era questa, se c'era una tradizione più antica. Però ovviamente col, con l'avvento del cristianesimo e con il fatto che se tu ammazzavi l'avversario iniziavano delle vere e proprie faide fra le famiglie, e visto che la famiglia è il nucleo della società, non potevi permetterti dei disordini sociali, si è venuta sempre di più a mancare questa, la possibilità di avere un duello giudiziario, tant'è che anche ne, cioè, il, la cosa del duello ce la siamo portata fino sicuramente alla fine dell'Ottocento, però fare un duello con chi ti aveva su, con chi ti aveva offeso era rimasto, è rimasto fortemente nella tradizione almeno dei primi del Novecento. Ed è una cosa sicuramente molto difficile da avere in un momento storico come quello dei Longobardi, perché appunto non volevi che le famiglie litigassero fra di loro, perché appunto ti veniva a mancare proprio il tessuto sociale che ti permetteva di governare, insomma. E quindi queste sono attività che fanno sempre molto molto piacere alle persone di vedere, perché scopri degli aspetti anche politici, se vogliamo, e di società dell'uomo di allora, ecco. Lucio in chat ci dice che anche in Sardegna nel passaggio tra la pubertà e l'età adulta viene regalato un coltellino, quindi evidentemente è proprio un valore simbolico, no? Nel senso è quello che rappresenta probabilmente questa cosa, insomma. Poi non so, nel senso... Se vedi in Italia comunque ogni regione ha il suo coltello rituale, il suo coltello tipico, insomma, ogni regione ha il suo, perché è una cosa, sicuramente una tradizione che è rimasta fortemente ancorata, certo, alla nostra nazione. Sì, beh, probabilmente chissà poi dopo qual è l'estrazione, no? Perché poi, cioè, nel senso, ogni popolazione ha portato il suo, ma poi magari queste cose hanno origini ancora più antiche, no? Perché comunque evidentemente è proprio un senso simbolico, un'appartenenza simbolica proprio all'oggetto, no? Quindi al coltello, coltellino, coltello da posata, coltello per tagliare il cibo, come dicevi te, insomma. Quindi probabilmente c'è proprio un'estrazione simbolica profonda e anche molto forte, insomma. Quindi sicuramente è così. E quindi, vabbè, a parte questa cosa del rituale, e invece fate proprio le battaglie, cioè nel senso ve menate, no? Sì, le botte anche ci sono, anche individuali fra di noi, per mostrare le nostre abilità. Sicuramente, cioè, tutto quell'allenamento che facciamo in palestra deve essere messo in pratica, okay, per far vedere, insomma, che c'è uno studio, che c'è una preparazione. E ovvio, ma nel senso, ma non fate male, però, cioè nel senso, o ve fate male? Sì e no. Ci sono stati diversi incidenti, purtroppo, perché non, perché uno, cioè, si va a prendere dalla foga, dici? Beh, perché tutto può capitare, Simone, cioè basta veramente un non nulla, e cioè basta veramente che tu tiri un attimo più in là lo scudo e ti succede qualsiasi cosa, oppure basta che tu un attimo dimentichi il colpo che devi dare in quel momento, e può succedere di tutto, insomma. Ma infatti la domanda che mi faccio io è, cioè, se tu stai facendo una battaglia rievocativa, cioè, mm-hmm, voi in quel momento lì avete preparato una coreografia, o è comunque una simulazione quasi reale, cioè quello che fate? Perché c'è, cioè, una cosa è fare una coreografia, se tutti più o meno sincronizzati sapete che chi deve dare cosa e quando lo deve fare, no? E una cosa invece magari è fare una simulazione più o meno reale, cioè nel senso, voi state lì e cercando di non farvi male, vedate le spadate per davvero, insomma, cioè come... Svela questo mistero a noi. Vi svelo il mistero. In realtà, per come ci prepariamo noi, è molto semplice. Con l'altro schieramento sicuramente ci mettiamo un attimo d'accordo sul tipo di mosse, sul tipo di movenze che l'intera, okay, armata farà. Per rendere il tutto più scenografico si parte magari con uno scontro proprio scudi contro scudi, proprio che per è quello far più casino, scenico, e fa rumore, esatto, certo, che è quello che piace veramente tanto, perché vedi proprio il sudore, le botte vere all'inizio. Sì, sicuramente, sì, certo, non colpisci teste, colpisci scudi, fai comunque casino, fai comunque molta paura, certo. Instilli sicuramente molta emozione nel pathos generale. Poi quando partono i combattimenti individuali, lì è da vedersi tra te e chi ti sta di fronte, è ovvio, nel senso, non cerchi di farti male, però se tu cerchi di muovere un colpo molto più potente, l'altro sa che tu stai mirando al suo scudo, comunque cerchi di trovare un'intesa con l'altra persona che hai di fronte, cerchi comunque di far capire, oh, io, certo, esatto, io non ti voglio far male, però facciamo uno spettacolo bello, facciamo vedere che siamo incarogniti, quindi cerchi di non ridere, cerchi di non farti vedere, insomma, così un po' moscio, cerchi di farti vedere, sì, bello, bello cazzuto, bello pronto, ma comunque con l'idea di portare uno spettacolo e non di far male alle persone. Non ti porti le questioni personali mentre stai in battaglia, perché a farsi male è un attimo. Gli, sì, attrezzi, sì, che infatti, hai sono veri, cioè non hanno il taglio, ma sicuramente una botta di spada in testa fa comunque male, anche se sì, l'altro, no, ha un elmo. Quindi chiaro. Bisogna fare sicuramente attenzione. L'importante, penso, è creare, che per quanto non possa un'idea, essere una puntita, se ti entra in un occhio ammazza uguale, volendo, cioè nel senso, decorsa. Sì, abbiamo visto cose molto brutte, la gente comunque si fa male, non è questo il fatto, cioè può capitare, insomma, che qualcuno, magari non è che dico che muori, o che devono portarti via in barella, ma qualcuno magari con i lividi esce sicuramente, certo. Poi ovvio, nel senso, lì cerchi di mantenere, cioè alla fine ti chiedi scusa, non è che no male, vabbè, ma quello ci mancherebbe, certo anzi, i revocatori in genere fra di loro sono tutti molto molto carini fra di loro, perché tutti capiamo, insomma, il valore che fanno gli altri, certo. Ti posso dire, è un mondo un po' oscuro in certi momenti, perché l'invidia, le cose ci sono, perché tu cerchi magari di portare un prodotto migliore degli altri, e se tu vedi qualcosa che a te non ti sta bene, vedi che qualcun altro è stato chiamato, però magari fa un lavoro peggio del tuo, inizi un po' a rosicare, inizi un po' a chiederti ma perché questo è stato chiamato, non è che è amico di qualcun altro, e può partire certo. Un discorso di questo tipo, però di per sé cerchi comunque di mantenere un profilo basso, e cerchi di comportarti da persona seria, perché alla fine stai lì a portare un servizio alle persone, un vero servizio, perché raccontare la storia non è facile e ti danno sempre meno possibilità, soprattutto vabbè questo periodo ci ha proprio fermato a tutti. Vabbè, questo tutti è chiaro, quanti. Questo è proprio, però può capitare insomma che c'è effettivamente una recessione anche in questo senso, però finché la cultura resta di moda in questo secolo, per noi c'è sempre tanto spazio, c'è veramente spazio per tutti, e dobbiamo veramente ringraziare che questo è un periodo storico secondo me molto florido per fare queste cose. Sì, hai detto bene, fino a che la cultura. Davide dice che lui ne ha visto uno molto easy alle Stelline di Milano, non so cosa possano essere, però va bene. Senti, io chiudo facendogli l'ultima domanda, che è una domanda un po' stupida, però in realtà è una domanda personale, diciamo, più che altro, perché così è una questione proprio tua, d'emozione, una cosa proprio andare a cercare un attimo di scavare anche un po' dentro il personaggio, no? Dimmi. Quando tu stai facendo queste, stai facendo una carica, per dirti, no? Cioè, nel senso, stai andando verso la formazione contrapposta, dentro di te. Dentro Leo, proprio dentro quel momento, anche un po' di concentrazione, di emozione, roba del genere. Sei contento di non essere nato nel Medioevo? Questa è una domanda un po' strana, però riflettici, wow, non no, è una domanda stupida. Bello, però in realtà è molto bello quello che mi dici, perché io in realtà sono assolutamente empatico con quello che faccio. E questo me lo immagino, questo è per io questo mi che ti ho chiesto. Io cerco in realtà di calarmi perfettamente in quello che sto facendo, di vivere con la massima serietà il momento che sto vivendo. Cioè, cerco veramente di spegnermi come Leo e di vivere come l'uomo che sta lì in formazione, che ha davanti il suo nemico. Cioè, io quello che penso è, io voglio che quello dietro di me mi spinga col suo scudo, in modo tale che io possa spingere l'avversario e aprire la carica. Cioè, io voglio questo, io voglio che questa giornata finisca con noi che vinciamo. Cioè, in realtà io, ripeto, non dico che proprio mi annullo come persona del 2020, ma cerco di vivere molto il momento e di divertirmi come un bambino, e di riportarmi assolutamente a quello che volevo fare da bambino, cioè essere un cavaliere, un guerriero. E questo. L'ho capito, cioè nel senso, proprio per questo te l'ho domandato, perché questa cosa io l'ho capita. Però poi, dopo, alla fine, cioè, tu sai che se tu fossi veramente lì, probabilmente non sopravviveresti a quella cosa. Cioè, nel senso, a volte ci pensi un po' a sta cosa. Questo che volevo come domanda. Sì, poi... assolutamente. Nel senso, mi rendo conto che basta veramente un non nulla e tutto può finire in un istante. Per quello che quando mi alleno cerco anche di ricordarmi questa cosa qui. Ma se io fossi vissuto nel passato e non mi fossi preparato a sufficienza, cioè, quante volte sarei morto per tutte le battaglie che ho fatto? Cioè, in quante occasioni avrei potuto tornare a casa da veterano e non da persona da seppellire? In realtà sì, me la faccio spesso questa domanda. Va benissimo. Senti, Leo, guarda, ci sono un po' altre domande che mi sono scritto, e a questo punto ritorniamo su sta cosa, perché questa è una puntata che nasce apparentemente così, ma io tanto che la volevo fare, perché sapevo che questo era un tema importante. Prima di tutto io ringrazio Leo, però gli do anche l'opportunità di fare pubblicità alla sua scuola, associazione sportiva e culturale, che insomma, se vuoi, tranquillamente. E io ti ringrazio, e sì, nel senso, se siete interessati comunque a vedere le nostre attività, vi rimando alla nostra pagina Facebook. Se volete ve lo scrivo anche in chat, così lo trovate, però se cercate Forte Braccio Vere Grenze trovate subito tutto quanto, lo trovate facilmente anche su YouTube, perché comunque abbiamo partecipato anche eventi, niente male, e E no, Lobster, non c'era il respawn purtroppo a quell'epoca, mi spiace. a nessuna epoca c'era, non, veramente. Comunque, non ci hanno programmato purtroppo questa cosa, purtroppo. Cioè il permadeath, come si dice. Esatto, esatto. Sì, la vita è un po' roguelike. Esatto. Ogni volta è una nuova avventura, sì. E sì, Forte Braccio Vere Grants, ve lo scrivo anche in chat, così se vi interessa. E ripeto, pagina Facebook, e se avete informazioni, se vi siete interessati così a seguire le nostre attività, se vi piacerebbe, insomma, far parte di noi, noi siamo felicissimi di accogliere nuovi amici che vogliano unirsi alle nostre fila. Cioè, c'è sempre bisogno di nuovi uomini che ci diano una mano, anzi questo credo che posso dirlo, penso che sia veramente un appello da fare per tutte le associazioni culturali. Penso che se ne avete qualcuna vicino a voi che vi piacerebbe, insomma, vedere che cosa fa, voi sappiate che probabilmente tutte avrebbero la felicità, la gioia di accogliere nuovi membri, nuove forze per l'appunto per portare avanti questa causa. Quindi Davide ha linkato il sito direttamente. Esatto, questo è il nostro sito da rifare, perché comunque ce lo diciamo da sempre che dobbiamo un attimo che correggerlo. Che cos'è Jimdo Free? Non ho mai sentito. È una piattaforma gratuita, sembra... questo, vabbè. Esatto, faccio. Esatto, tipo Wix, queste cose qui, insomma. Ok, tipo WordPress.com, allora. Però sì, penso Facebook è la cosa che ti aiuta di più, okay, per capire. Va bene, allora ritorniamo su questo argomento, magari con Leo ci riorganizziamo, cerchiamo un attimo di pianificare anche un po' meglio, così cerchiamo magari di andare per tematiche, così, cioè nel senso, questo è insomma quanto. Allora, ricorda anche il tuo podcast, che è così, insomma, mi pare giusto, insomma, no? E allora, i miei podcast in realtà potete seguirmi veramente in quattro mondi diversi: su Oro, su Lira, su Morfeo, l'ultimo arrivato, il piccolino di casa in cui faccio dirette serali ogni tanto. La prossima puntata ci sarà giovedì, in cui intervisterò un mio amico e parleremo di un po' di tutto. E vabbè, non vi voglio spoilerare niente, perché secondo me sarà molto molto interessante. E l'ultimo, quello che faccio, ci sarà anche domani mattina, e quello che faccio il martedì e il giovedì, che è Il Mattino Loro in Podcast, semplicemente uno show mattutino in cui parlo, e se vi interessa, insomma, sono lì, allora, e faccio sentire canzoni. Sono tutti su Spreaker. Sì. Ok, ma c'è una pagina Spreaker unica dove sono tutti e quattro, oppure ognuno c'ha... Sì, sono tutti sul mio profilo di Spreaker, quindi sì, si possono trovare facilmente qui su Spreaker, basta che andiate sul mio account e trovate tutto lì, insomma. Di pure qual è l'account, perché sennò... Leo Varghi è un podcaster, molto semplicemente. Insomma, hai ragione, caro mio. Allora, mentre io saluto, tu metti il link in chat, così almeno... Va bene, lo metto subito. L'opportunità, e poi io lo vado a rimettere anche nelle note dell'episodio, che domani mattina, quando uscirà questa puntata in podcast, diciamo, ci saranno i tre link di riferimento: il sito, la pagina Facebook ovviamente dell'associazione, e poi ovviamente i riferimenti allo Spreaker di Leo, così avete l'opportunità poi di andarvi ad ascoltare anche i suoi podcast, che un giorno ingloberemo. Davide già mi aveva preceduto, grazie Davide. Grande Davide, che Davide è sempre l'uomo più veloce del mondo. Assolutamente. Carissimi amici, allora, da domani sarà attivo il canale Telegram di Runtime Radio. Allora, voi sapete che noi su Telegram abbiamo 50.000 chat, e che... Ah, poi chi vuole mantenere la propria chat aperta perché discute delle questioni è un altro discorso. Però da domani i link relativi al runtime, i feed, le dirette, le comunicazioni verranno pubblicate soltanto sul canale Telegram di Runtime. Questo lo dico oggi, ma lo dirò pure domani, lo dirò nei prossimi giorni, in modo che questa cosa sia insomma abbastanza chiara. telegram.me/runtimeradio. Questo perché noi, quando facciamo le dirette, poi alla fine le inoltriamo su 150.000 chat, e non è detto che questa cosa sia ordinata, sia composta, sia ben fatta, anzi potrebbe anche dare molto fastidio a volte alle persone, e quindi cercheremo, insomma, di evitarlo. Vi linko chiaramente adesso in chat questo nostro nuovo Telegram, e questo sarà ovviamente il nostro punto di riferimento. Vi ricordo inoltre che Runtime Radio ogni giorno fa almeno una live al giorno, oggi ne abbiamo fatte due, ma io ne ho fatta anche una supplementare, sono stato con i beceri videoludici. Domani ci saranno altre live e per tutta la settimana, per tutto il periodo in cui noi saremo costretti a vivere questa situazione, questo è il nostro impegno morale, diciamo che è il modo in cui noi possiamo contribuire, è soltanto questo. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e ringrazio Leo Argion per essere stato con noi, perché veramente ci ha fatto fare una puntata interessante che ha appassionato pure Michela, che di solito di queste cose non gliene può fregare di meno. Sono stato felicissimo di essere, stato qui. Se ne è proprio appassionata, vai, scusa. E no, niente, io sono contento che Michela si sia appassionata di queste cose. Io ne avrei veramente centinaia di storie, ma visto che voi viaggiate così tanto, io le prossime volte, se vi va, vi dico insomma dove andiamo a finire come associazione, i posti in cui andiamo. Assolutamente. Così ci raggiungete e vedete io c'ho già lo striscione runtime pronto. Dai, così a casaccio. Perché nel Medioevo c'erano gli striscioni, chiaramente. La gente faceva. Io voglio il bandierone, il gonfalone di Runtime, assolutamente gonfalone, attenzione, bellissimo. Sarà fatto, no, veramente grandissima puntata, spero che tornerete a parlare dell'argomento, perché mi è proprio interessato, cioè nel senso, a parte l'aspetto che mi interessa di più è proprio quello della fine, quindi del combattimento, però come ci si arriva poi a questa fine, cioè la costruzione comunque del... e la preparazione. Ci facciamo un documentario su questa cosa. Magari. Attenzione. Sì. Voi ci portate le telecamere e noi ci mettiamo i corpi da immolare, insomma. Esatto. No, magari una volta niente, si può fare un discorso fatto bene. Adesso è un po' prematura questa questione, perché sapete, insomma, che non so tempi questi per poter però fare... sì, ovviamente. Com'è che l'ha chiamato? Non mi ricordo più. Scusa, lo striscione, la bandiera, il gonfalone runtime per te, assolutamente quello. Adesso mi metto già all'opera. Benissimo, allora ragazzi, ringraziamo Leo, ringraziamo Michela, ma soprattutto ringraziamo tutte le persone che sono state in chat, quindi ovviamente Davide, Gianluca Sansoma, sei arrivato adesso Gianluca, mi dispiace, insomma, quindi chiaramente Lucio, chiaramente Lobby Frontali, vabbè, Davide Gatti, l'abbiamo già detto, Michela che insomma si era proprio appassionata in una maniera incredibile a sta puntata, e tutti gli altri insomma che magari non nomino perché ne posso scorrere la chat fino alla notte dei tempi. Grazie. Anch'io ringrazio tutti quanti, saluto tutti quanti, grazie Davide, anche per me è sempre un piacere sentire il tuo podcast, che sono un ascoltatore in realtà di tutto Runtime più o meno, perché ascolto voi, ascolto GM, ascolto Everything, Survival Hacking, tutto quanto, insomma, quindi anch'io rinnovo il mio invito a seguire tutta Runtime, perché cacchio, cioè fate un sacco di contenuti tutti fighi e almeno qualcosa che vi può stuzzicare l'interesse ci sarà, voglio dire, quindi rimanete sintonizzati su Runtime per sempre e comunque. Grazie. Non andate da nessuna parte. Ricordiamo anche che Leo insomma ha un ottimo speaker e tra l'altro sì, non solo ha una bellissima voce anche nei suoi podcast, ma ogni tanto si è anche prestato per speaking, insomma, assets o cose del genere, insomma, quindi ringraziamo sempre, perché veramente è una collaborazione che ormai è nata, ma poi alla fine diventerà probabilmente un giorno anche un'amicizia, quando ci andremo a mangiarci in ghiale da qualche parte. No, vabbè, ma noi anche abbiamo una casa nelle Marche, quindi speriamo di poterci incontrare anche là. Esatto, no, perché per fare una bella cena medievale, di quelle proprio medievali, però deve essere una cena. Ma vi porto in certi posti, signore, che te dico levate, assolutamente. Va bene, ragazzi, ricordate www.runtimeradio.it, se volete c'è il tag, la scheda, insomma, lì Runtime anch'io, se volete partecipare. Ragazzi, io non lo dico perché in questo periodo vorrei proprio non dirlo, però è chiaro che voi lo sapete che Spreaker ha completamente abbattuto i ricavi pubblicitari, anche per loro, poracci, penso, insomma. Quindi se volete contribuire a noi ci fa piacere, insomma, date una mano, se no non vi preoccupate, non succede niente, e ci vediamo ci vediamo domani con i prossimi appuntamenti di Runtime. In questo momento non ho sotto mano, sicuramente domani sera c'è Alex. Sicuramente ce la c'è Alex, sì. Bene. E con una puntata speciale di Samma Radio, sì. Con i contributi di tutta Runtime. Contributi di chi vuole. Cioè, di chiunque esatto. vuole contribuire. E invece Leo domani mattina, giusto Luce, sei in live. Io domani mattina e torno su Runtime anche venerdì, perché anch'io nella prossima di Samma ci sono io. Ah, ok, perfetto. Allora, grazie di tutto, grazie Leo, grazie a tutti, ciao e buonanotte. Ciao. Ciao.